avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire. Maschio, dove sei finito? Questa è una domanda che mi sento fare continuamente da mie simpatiche amiche. Non esistono più gli uomini, non ci sono più gli uomini. Le donne devono vedersi, riunirsi, corroborarsi in consorterie solamente femminili e si leccano le ferite, e si consolano e piangono tra di loro. E dove sono finiti gli uomini? Poi gli uomini ci sono, non è che non ci siano, ma sono molto indaffarati, sono molto presi, sono molto rovinati, sono fratturati al loro interno. La vita li schiaccia, la mamma è lontana, non pensa più a loro, non sanno più come fare. Sono frustrati, sono disperati, sono abbandonati, sono solo, sono sparuti, sono abbandonati. Dove sono finiti gli uomini questa mattina? Vasca da bagno come l'ho pulita io, no, penso che non l'ha pulita nessuno. Ho usato prima la pasta abrasiva e poi gli ho dato la cera. Ho dovuto per lavoro anche specializzarmi nel, non sapendo stirare molto bene, nel stendere bene le camicie. Io faccio le pulizie da quando ho 19 anni. Omino di casa e orgoglioso adesso. La mia, diciamo, specialità sono i vetri. Nessuno mi batte. È una cosa, mia moglie va a chiamare le vicine per farglieli vedere quando io li ho fatti. Io, per esempio, che appartengo ormai a una classe di uomini corrotti, come costoro che fanno i lavori di casa, ho appena stappato una bottiglietta d'acqua minerale e sento c'è quell'odore d'uovo che hanno i bicchieri quando sono lavati male in cucina, che qualcuno ha cucinato le uova, e quindi non riesco a bere l'acqua minerale dalla mia bottiglietta. Quindi sono l'antitesi del maschio alfa, del maschio dominatore, di colui che impavide con lo sguardo sprezzante, fende la schiera degli altri maschi sottomessi, coglie la donna, la prende, la impregna, poi fugge con la lancia, la spada in mano ad affrontare i rischi della pugna e della battaglia. Beh, questa mattina vogliamo interrogarci, vi prego chiamate all'800240024 quale sia l'essenza e la chiave della virilità e della mascolinità alle nostre latitudini. Non andiamo a cercare lontano, guardiamoci attorno, quello che siamo noi. Per noi uomini è un grosso problema mantenere alto l'orgoglio del nostro ruolo, dei doveri e dei particolari cimenti che ci impone il nostro essere nati uomini, ma allo stesso tempo vogliamo essere uomini politicamente corretti, non in senso deteriore, non nell'accezione negativa che ha questo termine. Vogliamo essere comprensivi, vogliamo in fondo fare un passo avanti rispetto a prendere le donne e trascinare la terra con i capelli, buttarle su una roccia e fare scempio delle loro giovani carni. No, vorremmo fare altre cose, vogliamo essere comprensivi, vogliamo essere collaborativi e vogliamo guardare il lato femminile che è in noi. Ci avete insegnato voi ad essere così, avete voluto voi che fossimo gentili, avete voluto voi che evitassimo quella cosa terribile, bestiale, quella sopraffazione di invenzione maschile che è la penetrazione. Io mi ricordo, io ebbi, già facevo la radio negli anni 80, discussioni e trasmissioni radiofoniche, concioni in incontri pubblici in cui dovevo difendere la mia modestissima posizione di raccontatore di realtà con donne assatanate che mi dicevano che la penetrazione era inventata dagli uomini, una cosa totalmente maschile. In realtà la donna aveva una femminilità che voleva essere accarezzata, qualcosa di esteriore, qualcosa di non violento, e quindi dai con i fiori di Bach, dai con le cremine, dai con i messaggi rilassanti, dai con la musica olistica, dai con le pietre calde che emanano fumo, con tutte queste cose che però un pochino ci hanno fatto male e per questo siamo un pochino meno uomini. 800240024, maschio, dove sei? Il maschio alfa è una personalità che è dentro di te. Fin da piccolo hai sentito il bisogno di essere un maschio alfa, eppure la società ti ha bloccato. Ti sarà sicuramente capitato di sentire da piccolo, ma anche adesso, anche durante l'adolescenza, anche durante la tua maturità, di sentire il bisogno, ad esempio, di essere il capo di altri, di essere una guida per altre persone. Il maschio alfa è il seduttore per eccellenza, Un vero seduttore è un maschio alfa. Il maschio alfa è un uomo capace di creare attrazione nelle donne. È un leader. È una persona che crea la propria realtà e che non è inferiore a nessuno. L'uomo alfa è un uomo maturo, l'uomo alfa è un leader. Poverino questo ragazzino. Lo dice alla sua webcam e poi lo mette su YouTube, lo ripete a se stesso come se fosse un mantra che dovrebbe dargli coraggio e dargli forza a cosa sia il maschio alfa, ma si guarda intorno e non vede maschi alfa, probabilmente non li vede in famiglia, non li vede fra i compagni di classe, non li vede in giro per strada, e lo cerca come Diogene con la lampada cercava l'uomo, lui con la sua lucerna cerca il maschio alfa. 800240024, Massimo, buongiorno. Massimo. Sei un maschio alfa? Ma non lo so se sono maschio alfa, però l'altra settimana parlavo con un paio di amiche del fatto che, almeno ascoltavo loro che si lamentavano del fatto che... Guarda che già sospetto sto fatto, noi parliamo sempre con le amiche. Il confidente delle donne già non è più un maschio alfa, no, già comincia a essere gamma delta, già comincia a scendere nella china dell'alfabeto greco che porta al maschio omega, che è ormai quello che le ha prese, se le ha tagliate, le ha messe in formalina e se le porta al collo come un orpello. Vabbè, ma anche il maschio alfa può avere casualmente delle amiche femmine. Non dovrebbe. Dovrebbe prendere, sbattere e scappare con la lancia, questo è il maschio alfa. Sì, in ogni caso si lamentano del fatto che il mercato dei maschi è particolarmente deprimente in quanto a qualità. Questo gioca anche a favore comunque di noi maschi, non proprio alfa, così almeno qualche scartina ogni tanto può capitare. Però andiamo avanti, vediamo il punto dal tuo punto di vista. Ah, il punto è che si lamentano del fatto che i maschi non esistono più. No, non esistono più uomini, maschi o non maschi, cioè non trovano uomini perché nessuno è disponibile. Degli uometti, oppure si divertono quando trovano un uomo che le corteggia, che fa far loro delle belle cose, eccetera, eccetera, che sa mettere quattro parole. E poi insieme. Si lamentano se è sposato, se non se le sposa. Però poi alla fine si fidanzano con quelli che vanno a menarsi allo stadio la domenica e si lamentano. E veri maschi alfa, però quelli sono i maschi alfa, sono gli ultimi rimasti. Sì, ma sono delle bestie ignoranti. Ma non è detto che non sia quello che le donne vogliono, non lo so, me lo domando questa mattina, 800240024, Elisabetta Ruspini, buongiorno. Buongiorno. Docente di sociologia all'Università Milano Bicocca, autrice insieme a Maria Luisa Fagiani del volume Maschi Alfa, Beta Omega, Virilità Italiana tra persistenza, imprevisti e mutamento, edizioni Franco Angeli. Io sono partito duro, ma il termine me lo consente, è necessario. Voi avete fatto una inchiesta dettagliata e spietata sul livello di maschialfismo al nostro paese, cosa ne è venuto fuori? Allora, innanzitutto sono molto contenta di essere qui con voi e ho trovato, diciamo, questa introduzione che avete fatto estremamente interessante, anche ricca di spunti. Beh, un'introduzione interessante, già sulla buona strada di essere maschio alfa. Non essendo un maschio alfa. Allora, lo dico da non maschio alfa, chiaramente. Ma scusi, diciamo uno si deve vergognare di essere maschio alfa, nel caso semmai lo fosse. Un po' sì. Ecco, e questo è un buon punto di partenza. Ma quello è lo sbaglio, un po' forse. Sì, secondo noi, diciamo, la vera forza virile o la vera forza maschile è proprio nella resistenza al modello di maschio alfa, perché il modello di maschio alfa noi l'abbiamo definito un richiamo sirenico che non porta da nessuna parte, che pone gli uomini costantemente di fronte a sfide che, diciamo, sono sfide assolutamente difficilissime da superare e che crea una ansia, depressione, crea angosce, crea, come dire, l'identità viene proprio, diciamo, messa a durissima prova. Ci può essere il maschio alfa 2.0, quello che non è depresso perché non deve sfidare nessuno, non è più alfa a quel punto? No, attenzione, allora, secondo noi, diciamo, il maschio alfa, come classicamente, tradizionalmente visto, qualcuno lo diceva, l'uomo che ingravida, l'uomo che è leader, l'uomo che è migliore. Ecco, a noi questa cosa, come dire, in un contesto, se posso permettermi, tardo o postmoderno, ci sembra veramente qualche cosa di estremamente obsoleto. Perché, ripeto, non è al passo con i tempi, non crea dei problemi, ma non solo con le donne, crea problemi in famiglia, crea problemi con i figli, crea problemi con le genealogie. Ma quello volevo capire, professoressa, può esistere una riscrittura del maschio alfa in chiave postmoderna, o il maschio alfa è quello e non ci piove, sempre quello sarà? Infatti, non a caso, il primo ascoltatore ha citato come modello il coatto che va a spacca tutto allo stadio. non mi sembra molto postmoderno il coatto, ecco, diciamo. No, dico, ma io lo so, ma sì, può essere una per quello che dico io, va riscritto quello lì. Si può sovrascrivere il maschio alfa o è quello, non ci piove? No, no, assolutamente. Allora, noi quello che abbiamo cercato di fare con questo libro è di far capire tra il polo alfa e omega, se vogliamo prendere due poli, io detesto le dicotomizzazioni, ma diciamo che lo facciamo per una questione di chiarezza. All'interno di questo polo ci sono migliaia di possibilità di esprimere la propria mascolinità, che può essere per un verso alfa, per un verso omega, per un verso, come diceva lei, gamma o delta. E questa, diciamo, questa copresenza di diverse modalità di essere uomo, che lava i vetri, che però sessualmente, come dire, è spregiudicato come vuole lei, che però è rispettoso nei confronti degli altri uomini, che però questa, come dire, questa copresenza di diverse figure è forse una delle caratteristiche della postmodernità. Perciò non ha senso ricercare un modello univoco. Il maschio alfa è un modello univoco che ingabbia il maschile, ingabbia tutte le possibilità di espressione, se vogliamo non alfa, se vogliamo quasi alfa, se vogliamo omega, e che secondo noi riduce in maniera drastica, diciamo, la ricchezza del maschile che ogni uomo porta dentro. Cominciamo con qualche dolorosa testimonianza, così lei e l'altra ospite ci sta ascoltando, ma la faccio ascoltare perché poi dovrà darci degli elementi importantissimi. Qualche pietosissima confessione di donne che, ahimè, nella vita cercavano il maschio alfa e sono dovute accontentare del maschio omega. Emilia. Buongiorno. Che maschio hai sotto mano? Allora, io ho un alfa e omega, nel senso che... Sì, è che sembra la lapide del cimitero, così. Scusa, alfa e omega, insieme sta male. Perché io non l'ho cercato, l'ho trovato così, nel senso che mi sono innamorata di lui per caso. E io spero che sia un maschio omega, nel senso che spero che sia l'ultimo uomo, quello con cui diventerò vecchia della mia vita, e che però ha, secondo me, tutte le qualità, nel senso che è un leader, ha un carattere dominante, ma senza essere, come dire, esagerato con le altre persone, soprattutto con me. Nel senso Artiglio che, di ferro in guanto di velluto. È uno di quei leader che non hanno bisogno di imporsi per essere quello che sono, insomma. Bello. E quindi è dolce, e che è una cosa che a me fa sembrare gli uomini anche più maschili, e quindi tenero, che anche questo io trovo una qualità. Beh, sei fortunatissima, sembra che stai raccontando per far schiattare d'invidia le altre povere signore che ci hanno accanto dei residui di umanità. Comunque sembra quasi impossibile, ma esiste o è una tua allucinazione? No, esiste, ci vivo assieme. Ed è anche bello, però questo qui penso che sia, preferisco che sia bello dentro, ma... Questa potevi evitartela, bello dentro, gli intestini non sono mai un granché da guardare, le budella, l'interiore, dentro nessuno di noi è bello, l'essere belli dentro è una invenzione. Cristina Sivieri, Tagliabue, buongiorno. Buongiorno a voi. Cristina, ti ho tenuto in ascolto fino adesso, perché tu hai creato e inventato proprio da pochi giorni quello che è il meccanismo di distruzione dei residui di maschi alfa che possono esistere. Uno spregiudicato nuovo femminile. Descrivi e racconta cosa hai fatto. Fondamentalmente ho lavorato per qualche mese all'idea della creazione di un femminile, con l'obiettivo e l'intento di raccontare il talento delle donne, cioè la parte bella, la parte intelligente, la parte superiore. Non è mai quella dentro, dai, diciamo la verità. Ma non lo so, nel senso, l'obiettivo era quello sicuramente di raccontare donne che assomigliano a me e che non si sentono rappresentate nei giornali. Per esempio, io non mi sento rappresentata nei femminili, perché i femminili in copertina hanno sempre o delle modelle o delle attrici, no? E quindi io, insomma, ho voluto cercare di capovolgere la frittata, ma il pensiero più che sugli uomini, diciamo, è stato sulla rappresentazione. E cosa è venuto noi fuori? Diccelo. Su chi siamo noi. Ma diciamo che prima di tutto abbiamo deciso chi avrebbe fatto la protagonista del primo numero, che era poi una scelta importante per la redazione, perché sarebbe stato un po' il simbolo del nostro giornale. Abbiamo scelto una grande artista italiana riconosciuta a livello internazionale, però molto molto di nicchia, nel senso una signora con capelli grigi. È Vanessa Beecroft. Non ha i capelli grigi. Beh sì, un po' grigini. racconto. No, non ce le ha grigi, semplicemente è che ha creato un'opera d'arte, un'opera d'arte dedicata a noi, e quindi la fotografia che c'è in copertina non è la fotografia di una donna che diciamo ha i capelli grigi. No, è una bella donna, però ecco, non è in quel tiraggio artificiale finto photoshoppato che normalmente si vede in tutte le copertine. È una bella donna, piacevole donna, come tutti vorremmo averne una vicino nei momenti di solitudine, però questa è la tua scelta, quindi. È che io dicevo, però, è un giornale che mette in crisi l'uomo ancora più, perché sono donne che hanno un grande desiderio di affermare la loro autonomia. Tranquilla, ti sei costruita, hai inventato un nuovo giornale femminile in un panorama che sembra che ce ne siano, che da Eva 3000 fino a Vanity Fair c'è una gamma abbastanza infinita. Ecco, come si chiama questo magazine? Scusami Gianluca, sì. No, quello che non mi interessava fare era fare un giornale di gossip, non mi interessava parlare alla parte bassa di noi, non mi interessava fare l'ennesimo giornale che si domandasse se ti piace l'uomo principe azzurro oppure l'uomo travagliato, eccetera, eccetera. Cioè io volevo fare un giornale che parlasse di noi, della nostra vita, del perché non ce la facciamo a essere nei ruoli di potere e quindi a incidere sul dibattito, no, quotidiano. Ecco, perché si chiama Il Primo Sesso, il sottotitolo? Il giornale si chiama Woman, tu l'hai ancora detto finora, sei così modesta che non hai detto nemmeno il titolo. Ecco, Il Primo Sesso, cioè tu affermi il fatto, e c'è ben chiara nel logo del titolo, il simbolo della femminilità, che un giornale dovrebbe rappresentare la femminilità, ma una femminilità mediata. Hai sentito la professoressa? Oggi il maschio ideale è un maschio variegato, che dovrebbe essere sì al momento giusto aggressivo, ipervirile, e affermare la sua responsabilità, ma essere anche dolce, comprensivo, tenero, fare le faccende domestiche. Insomma, dovremmo creare una sorta di clone che al momento è raramente rappresentato. Invece, in un momento in cui i femminili sono così uguali ai giornali maschili, se prendi, togli i titoli, metti vicino un giornale per soli uomini, un giornale per sole donne, hanno la stessa foto in copertina, quasi, più o meno, qualcosa di indefinito. Ecco, voi invece ci tenete a sottolineare la differenza, la definizione dei ruoli, dei singoli, dei simboli e delle polarità? Ma insomma, era un po' uno scherzo utilizzare un po' un'autoironia, se vuoi utilizzare Il Primo Sesso riprendendo Il Secondo Sesso di Simone de Beauvoir, però un po' anche no, nel senso che in termini numerici siamo più degli uomini, no? Siamo più bravi a scuola degli uomini, siamo anche più, quindi è un numero ormai molto molto importante di lavoratrici che però poi non hanno... Come però sai, il maschio alfa questo gliene importa niente, vi dice ma quando vi stendo io siete tutti uguali. Questo dice il maschio. Ma noi, come dire, in realtà abbiamo fatto una campagna anche pubblicitaria, insomma, in radio, dicendo che le favole sono belle, però dipende da chi te le racconta, no? Cioè, nel senso, a noi piace Peter Pan, però a un certo punto, insomma, il maschio Peter Pan di cui si è sempre tantissimo parlato, forse va bene per certi momenti. Ha un po' rotto le scatole. L'uomo alfa va bene per altri, cioè io credo che l'uomo alfa non sia così orrido, no? Cioè l'uomo duro che va allo stadio, noi volevamo fare addirittura un servizio adesso sulle donne che vanno allo stadio in curva. Cioè, dopo c'è l'uomo principe azzurro che viene sul cavallo bianco, ti bacia, ti salva, ti trova un posto di lavoro. Questo non accade mai. Insomma, Cristina, ci crea la vita ancora più difficile. Fermati un attimo, un istante. Carmen, velocemente, poi devo dare la linea all'informazione della borsa. Carmen. Buongiorno. Sì. Pronto? Buongiorno. Sì, prego. Allora, velocemente, a me non sembra una coincidenza, ma nella mia lunga vita, ho 58 anni, sì, sono stata mollata 4 volte da uomini con questa, adesso ne ho, non è quello il problema, con la stessa motivazione, e a me non sembra una coincidenza. Qual era? Tu sei troppo tutto per me. Troppo. Ah, sì, sì, però è una classica scusa. Troppo perfetta. Sì, ma quando non sappiamo che inventarci. Riesci a fare tutto, tieni conferenze, riesci a gestire la casa, sono senza figli, riesci a organizzare corsi di. Sei troppo per me, non ti merito, vero? Esatto. Lo sai, non ti merito nel senso. Carmen, a 58 anni, però è giusto che tu lo sappia. Ti rivelo un segreto di noi maschi Omega, però devo dirtelo. Questa è la quando proprio non vogliamo far male, che vogliamo mollare una persona, lasciamo questo regalo gratificante dicendo sei troppo per me, in modo lei si gratifica e si consola del fatto cioè ero troppo per questo uomo, non mi meritava. In realtà è una normale scusa che tutti usiamo quando in età in cui uno può fare queste cose, quando si vuole lasciare una donna, quando non sa proprio che inventare, non sa proprio che scusa addurre, non c'è proprio un motivo, perché è perfetta, è buona, è gentile, piange il cuore mollarla e ferirla quando proprio non ce la fa più. Per spegnerla con il telecomando si dice tu sei troppo per me, tu te ne vai, finalmente te la sei levata dai piedi, e lei è contenta perché dice ah, vedi, non mi meritava. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer. Melog 2.0. Non mi starai sfidando di nuovo, vero? Guarda il lato positivo, Zuba. Dopo che ti avrò sconfitto e sarò diventato il leone alfa, avrai molto più tempo da passare col tuo patetico figliolo. Prima che ti prenda a calci, fammi capire soltanto una cosa. Perché vorresti diventare il leone alfa? Sono più bello, ho la criniera più folta, sono subdolo e furbo. E voglio che si faccia quello che dico io. Oh. Cominceremo la lotta al 3. 1. Guarda bene, alla fine. Sono leoni? Adesso, papà. Sono due leoni di. Questi sono due leoni di. Un film, un cartone animato, ditemi qual è che non mi ricordo bene esattamente. È Madagascar 2, che stanno apprestandosi a dividersi e a contendersi il ruolo di maschio alfa, ma sentite, anche dal doppiaggio si capisce che sono ben lungi da sfiorare questa condizione privilegiata alla mascolinità che stiamo cercando di definire questa mattina. Il maschio alfa si è fatto vivo, mi manda un sms, si chiama Marco, dice manica di culatte, quando mi gira piscio anche dal poggiolo e guai chi parla, avanti orecchie Marco. Questo probabilmente è il maschio alfa. Luca, buongiorno. Ciao, buongiorno. Intanto devo dire che sei un grande. Sì, vabbè, detto questo. No, ma perché riesci a sopportare un sacco di parole a vuoto dette in una maniera incredibile. Riesci anche a tirarci fuori delle cose intelligenti dove non ci sono. Va bene, detto questo. Perché in realtà il maschio alfa e il maschio omega sono il problema vero, sono le donne che sono tutte banali, uguali, scontate. Al di là del bla bla bla. Io non bla, è che sono molto d'accordo con te, Luca. No, basta guardarsi. Allora, dammi retta, nel senso che parlo per esperienza. Assolutamente. Allora, quando una donna mi viene a dire. Alzo le braccia, di Freud, della Bovisa ne è pieno il mondo. Sì. Quando una donna mi viene a dire il maschio che va alla partita di calcio, ma io da quando ho 17 a 21 anni mi sono sempre scopato le donne. Davvero, le mamma mia, che fenomeno sei. Scusa Luca, no, dico, ma perché questa questo senso, hai questa aggressività così spiccata? Cioè, ma non no, è c'è bisogno. Ma perché mi fanno ridere. Sì, ma perché sei così arrabbiato con le donne? Cioè, uno basta. Ma sono perché sono tutte uguali, si ma comportano alla fine nella stessa maniera. Sì, ma tutte uguali non si può dire manco delle margherite. Scusa Luca, tutto uguali è impossibile, è una vasta, l'umanità fornisce dei modelli, grazie a Dio, di una differenza totale, di quelle che ho conosciuto io appartenevano tutte a una categoria simile. Poi non è carino che un uomo si vanti delle proprie attività copulatorie, di solito chi parla tanto poi in effetti ha bisogno di confermare. Non voglio mettere in dubbio il tuo alfismo o la tua conoscenza delle donne, mi hai dato ancora una volta la conferma che è molto difficile da raggiungere questo modello. Questa mattina però parlavamo di un libro, Maschi, Alfa, Beta, Omega, Virilità Italiane tra persistenze, imprevisti e mutamento, di Maria Luisa Fagiani, Elisabetta Ruspini, edizione Franco Angeli. Abbiamo al telefono la professoressa Elisabetta Ruspini, con cui abbiamo cominciato a discutere, ma andiamo avanti. Abbiamo avuto una rappresentazione di un aspirante maschio alfa, però vediamo se dalle telefonate che lei ha potuto ascoltare, professoressa, si è fatta un'idea o una conferma di quello che avete osservato voi, o rappresentiamo un campione differente come trasmissione radiofonica. Io sono un po', cioè, mi spiace sentire queste cose, ma non è una questione. Però l'umanità è fatta così. Donna uomo. Non è che le persone possiamo prendere con le pinzette, è certo, quello che passa, no. Noi è questo. È una questione che, secondo me, la questione importante, ma per gli uomini stessi, al di là del rapporto con le donne, certamente il rapporto con le donne è importante, ma c'è anche un rapporto con se stessi, un rapporto con gli altri uomini. Questo rapporto deve essere un rapporto, come dire, che viene esplorato in tutti i sensi. Non esiste un modello univoco. Gli uomini, non tutti, tutti, non tutti, non voglio generalizzare, ma alcuni uomini dovrebbero capire che rincorrere un modello che non esiste, che è un modello soltanto ingabbiante, che crea aggressività, che crea problemi, non ha senso, non ha più senso. Ha molto più senso in questo contesto storico sperimentarsi rispetto al proprio corpo, rispetto alla propria sessualità, rispetto alle donne, rispetto a se stessi, rispetto agli altri uomini e alle altre culture, rapportarsi in maniera serena. Anche perché questo contesto storico dà la possibilità veramente di, come dire, sperimentare, di arricchirsi, anche magari strade che poi una persona decide di non proseguire, però la sperimentazione è possibile. No, la dove sperimentazione... vuole arrivare, professoressa? Voglio arrivare a dire spieghi che bene, come perché... dire, non ha nessun senso rincorrere un modello univoco, come dire, non ha senso né per chi lo rincorre né per chi... Guarda, io ho colto nella telefonata dell'ascoltatore, che mi dispiace di averlo usato come cavia, però questa sorta di animosità, di rabbia dentro, che è sintomo, nessuno di noi ha risolto i suoi problemi, nessuno di noi si può dire tranquillamente realizzato nel rapporto con le donne, si figuri, nessuno, me compreso, è una cosa che non si arriva nemmeno all'età più matura aver capito veramente chi si è in un rapporto con qualcosa di così diverso, sconvolgente, affascinante, allo stesso tempo spaventoso come il mondo femminile. Ma io lo dico con grande leggerezza e con grande consapevolezza, non ammettere questo già significa essere un po' agitati come il nostro ascoltatore. Probabile, sì, assolutamente, e l'agitazione non credo che porti a nulla, nel senso che non porta certamente a un miglioramento dei rapporti umani, al di là appunto dei rapporti, diciamo, affettivi, sentimentali con l'altro sesso. Teniamo anche conto che ci sono rapporti affettivi, sentimentali con lo stesso sesso, che una persona può avere diversi orientamenti sessuali e si può rapportare in maniera differente con persone differentemente nel corso della vita. Ecco, non diamoci troppi limiti, ma che questi limiti siano dei limiti che poi, ripeto, creano problemi a noi stessi e agli altri. Sì, guardi, l'uomo però i suoi limiti, l'uomo ce l'ha da proprio dalla necessità, dalla sua natura, che il suo comportamento no, è molto condizionato. Scusi, io non sono una sociologa, parlare di natura per me, non so come dire, è un po' problematico. Ma la natura maschile esiste. Io sto parlando per l'aspetto organico, fisiologico, fisico di un uomo. Sì, ma allora tutti gli uomini dovrebbero essere delle coppie di se stessi, e non è così. Sì. Ammetterà che non è proprio così semplice essere uomo come l'essere donna. Certo, ma ripeto, in questo momento, con tutte le difficoltà che ha, sì. Se mi lascia parlare, sì, in questo momento storico c'è la possibilità di confronto, anche perché molte certezze del passato, molte gabbie si stanno sgretolando. Cogliamo questa opportunità. Questo libro è stato scritto anche, diciamo, per far capire che ci sono delle opportunità, ci sono delle imprevedibilità che però possono diventare arricchenti e per le donne e per gli uomini, tenendo conto che donne e uomini sono estremamente variabili, ricchi e variegati. Sentiamo Mario che si reputa un maschio alfa, così vediamo di capire chi ha già risolto il suo problema. Mario. Oh mamma mia, magari avessi risolto il mio problema, buongiorno. Dai, maschio alfa, cosa chiede più dalla vita? No, allora, intanto volevo fare un piccolo appunto, se me lo permettete. Sto sentendo parlare tante esperte, tutte donne. Ma io faccio gli uomini, parlano gli ascoltatori. Gli ascoltatori va benissimo. A me interessa che stamattina il punto di vista delle donne sugli uomini, fra di noi ci possiamo raccontare come vogliamo. Ho perso l'inizio della trasmissione. Se no, basta andare nello spogliatoio in una palestra, figuriamoci, abbiamo tutte le rassicurazioni possibili. A voglia. Certificate anche in evidenze probabili, capito? Quindi dobbiamo capire come le donne guardano gli uomini, perché la nostra tranquillità, la nostra sicurezza, la nostra compattezza è data dal conforto di uno sguardo femminile compiaciuto, compiacevole, corroborante. Fra di noi ce la possiamo dire quanto vogliamo, ma è una presa in giro, è roba, sono chiacchiere da bar. No, sono d'accordo perfettamente. Senta, allora, in due parole semplicemente, quello che ho detto prima quando vi ho telefonato, che mi reputo un maschio alfa, è un pochettino una provocazione, nel senso che dopo ben 6 convivenze penso di avere un minimo di esperienza con le donne, e mi hanno portato, adesso all'età di 46 anni ormai, a capire che poi alla fine quello che vogliono le donne, almeno quello che ho incontrato io nel mio percorso di vita, è comunque un uomo che abbia appunto la consistenza del maschio alfa, per cui la forza sotto tutti i punti di vista, soprattutto è molto spiccante, molto importante per loro il punto di vista sessuale, sembrerà... Ma questo è il punto con cui avevo sollevato una perplessità con la professoressa. Quello uno ce l'ha o non ce l'ha, uno mica può mettersi nell'allungatore o nel rinvigoritore, quello è, se vogliamo affermarci. Uno deve nascere così. Io poi nella mia esperienza di vita ho provato a essere dolce, a mettere lo zucchero, il piccante dove serviva, ma stringi poi quello che interessa più. Diciamo che la dolcezza uno se la può anche inventare, ma e si educa, ma il fisico bestiale o ce l'hai o non ce l'hai, non esiste. Ma il fisico è comunque la forza maschile, è la cosa poi quella alla fine più importante. Sì, ma se uno non ce l'ha, lì ci deve nascere, per questo ci deve nascere. Se uno non ci nasce, tutti maschiali, diciamo, no? Che la dolcezza uno se la inventa, uno si mette lì, può fare anche il ruffiano, il dolcino, il carino, sì, e il comprensivo, se il fine giustifica i mezzi. Ha detto la parola giusta, ruffiano. Certo, sì, ma noi uomini quando siamo dolci siamo ruffiani, non siamo naturalmente dolci. Abbiamo capito, ci vuole quello, ma bisogna dire delle cose, non te prendersi in giro. La nostra natura ci farebbe stare nel rapporto con la donna, con il telecomando comando in mano, si prende e si spegne, e questo è la natura nostra, è questa. Dania, buongiorno. Buongiorno a te, Gianluca, e alle tue ospiti. Sì, dai, forza. Allora, a me atticcia molto l'uomo simpatico, ironico, che non debba far vedere la sua bavetta lumacosa, sicuro di se stesso, e molto molto intelligente. E proprio qualche giorno fa... Anche bello, naturalmente, no? Sì. Certo. Ma no, la bellezza è al secondo piano. Sì, però, se fa schifo, no? No, va bene, una cosa accettabile. Noi siamo qui al mercato. Scelga pure, signora, poi cos'altro desidera? Proprio qualche giorno fa in uno status di Facebook ho scritto che secondo me l'uomo dovrebbe, il condizionale è d'obbligo, avere, partendo dall'alto in basso, le tre C, cervello, cuore e puntini. Nient'altro, non lo so, serve altro, dica, perché siamo qui per questo. No, cervello, cuore. Va bene. In percentuali molto simili tra loro, però da esperienze personali ho tratto... Ma in senso di densità, di spessore, di cosa? Di peso specifico? Di spessore, vai. Di spessore, vabbè, la signora si è espressa. Come vedete, noi saremmo disponibili ad essere sul mercato, a essere sulla piazza, a darci tutti. Questa è la richiesta da parte delle donne, quello che possiamo fare si fa, ma ci rendiamo conto che in realtà... una volta era molto più semplice, per una volta era l'uomo che affermava la sua esistenza, vera, non vera, impropria, millantata e via dicendo. Oggi che ci confrontiamo con un mondo femminile che in realtà ha avuto la sua autonomia, dobbiamo anche noi confrontarci col fatto che la nostra presunta superiorità, il nostro presunto senso di essere uomini è frutto di una negoziazione continua, di un lavoro continuo su di noi, e su questo non è che siamo così abituati, dobbiamo forse avere ancora qualche altra generazione di tempo per rendercene conto. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque 800 24 0024. Stiamo alla ricerca di una figura maschile che sia adeguata alla nostra contemporaneità, che abbia il senso di comprensione dell'evoluzione che c'è stata nel mondo femminile, nella sua emancipazione, nel suo essere consapevole del ruolo e dell'importanza che ha la femminilità nell'umanità in genere, ma allo stesso tempo mantenere quei segni distintivi della nostra facoltà di essere uomini che tanto piacciono alle donne. Cristina Sivieri Tagliabue, tu cosa ne dici? Ricordo, direttrice, fondatrice, ispiratrice del nuovo femminile Woman, il primo sesso. Io stavo ascoltando tutti coloro che hanno partecipato. Ma qua è robettina fina, non è che mica... No, veniva da ridere, perché in realtà avevo un grande desiderio dell'opposto del maschio alfa, cioè a parte questa cosa della dolcezza che vabbè non condivido, ma perché l'uomo tenero, dolce... Ma lo sai che è una paraculata la dolcezza degli uomini, dai, ormai sei grande. I denti, non lo so, questa cosa troppo melosa, facciamo dei training massacranti per essere dolci, ma non ci viene naturale. Io in realtà non lo so, non ho idea di quale sia la formula corretta. Certamente se parlo, insomma, alle donne come me che hanno intorno ai 40 anni, che lavorano, che hanno una vita molto molto complicata, che magari vivono in città, quindi comunque hanno dei ritmi di vita. Ecco, che tipo di maschi attizza la donna tipo te, per far capire? Una donna. Non vorrei parlare per tutte, però. No, ma per tu sei rappresentativa, sei una bella donna, sei molto introdotta nel mondo della comunicazione, del lavoro, frequenti personaggi, sei attiva, sei la tipica donna che l'uomo arrivato desidera, perché vuole la donna anche intelligente, vuole anche fare questo sforzo, non gli basta più quella soltanto bella. O sbaglio? Ma magari, no, a me non succede assolutamente, a parte perché non ci prova nessuno. Cioè, questo vedi che è anche un altro problema questo. Più sei professionista, più sei in gamba, più eccetera eccetera, più tutti in realtà sono lì un po' sull'attenti, quindi c'è questa difficoltà proprio di dire, quello sarebbe già un bel segno. Sono diventata brutta oppure sono diventata antipatica, ti puoi delle domande. E poi io capisco una cosa, cioè mi capita spesso questo, che quando stai con un uomo in realtà ed hai comunque delle cose da dire, quindi c'è una sorta di parità culturale, intellettuale, all'uomo mica gli sta bene, cioè l'uomo vorrebbe in realtà, no, raccontare le sue cose che ha fatto durante la giornata. Sì, è vero, questo è vero, certo. Le sue cose mitiche, e tu dovresti stare ad ascoltare dicendo buttare anche le pantofole, quelle cose carinissime, sì. Ne abbiamo già parlato molto in questa trasmissione di questo. No, ma anche solo ascoltare, no? Solo ascoltare. Io ascolto, però poi, cioè, insomma, voglio contare anch'io, no? Voglio da noi anche, perché gli uomini che raccontano sono noiosissimi spesso. Sì, poi comunque sono un po' tronfi, no? Infatti tu dici, gli uomini di prestigio ti faranno un sacco di cose. No, guarda, uomini di prestigio, cioè speriamo dopo questa trasmissione un casino, però al momento assolutamente no. Vabbè, tu confida negli idraulici, negli operai, manutentori. Sentiamo Alice, un attimo solo, Alice. Sì, buongiorno a tutti. Io vorrei iniziare dicendo che sono sempre stata attratta dal cosiddetto maschio alfa. È come, allucinamelo, descrivimelo velocemente. Allora, a parte fisicamente sempre alto, prestante, così, e con un piglio. Come dice Batantuono, sproporzionato dal punto di vista del sesso. No, quello bisogna scoprirlo dopo, sì. Se va bene l'inizio. È sempre appunto con un piglio autoritario, ma le uniche due storie che ho avuto con un maschio alfa sono andate malissimo, perché sono stata puntualmente lasciata. Se alfa, certo che ti molla. E infatti, sennò che alfa sarebbe? Perché questi erano solo maschi alfa, o perlomeno che io credevo fossero maschi alfa, ma fondamentalmente concentrati su se stessi, tutti e due. Poi guarda, scusa, io lo sai perché non sono molto d'accordo con i miei interlocutori? Perché il maschio alfa è questo, non esiste l'alfa rivisitato per i tempi moderni. L'alfa è questo, l'alfa è uno stronzo, diciamo la verità, se no non sarebbe alfa. L'alfa addolcito è un'altra cosa, è una versione edulcorata, può esistere. Non lo so, ma non è l'alfa. Luisa, questa qui è un pericolo pubblico, una mina vagante. Luisa, stai parlando con me o con qualcun altro? Luisa, Luisa, la stiamo cogliendo in una sua conversazione privata. Luisa, questa, dico, se io avessi un uomo al posto di questa donna qua, io avrei interessante paziente, mi sta molto meglio. Ma sta parlando con me? Stiamo intercettando Luisa, non so se questo è legale. Luisa, con chi sta parlando? Ha lasciato il telefono in viva voce, Luisa. Sta parlando con una sua amica infervorata del tema della trasmissione, però non parla. Luisa? Sì, c'è Luisa? Luisa? Scusa, da dove sei? Questa mi sembra una centralinista di una centrale taxi. Luisa svolgerà il suo lavoro, lo so, non la dobbiamo lasciarla un attimo. Torniamo alla professoressa Ruspini. Io, è inutile, devo ribadire il mio concetto. Accetto la vostra ricerca, il suo punto di vista, ma sono convinto che il maschio d'alfa è alfa se è quella cosa che diceva la nostra ascoltatrice. L'alfa 2.0 è un'altra cosa, non è detto che non sia l'uomo necessario per questa epoca, però è un'altra cosa, dovremmo chiamarlo diversamente. Io rispetto profondamente il suo punto di vista. Sì, ma ci rispettiamo entrambi, però lei capisce che così, secondo me è così. Mi fa molto piacere, sì, che ci siano, come dire, donne che apprezzano, insomma, la qualità alfa. Personalmente io credo che, ripeto, l'alfa sia, come ho già detto, un modello estremamente limitante, obsoleto, che veramente non ha quasi più niente a che fare con i tempi. Su questo sono d'accordo anch'io, però è quello dei quali viviamo, e che c'è dall'alfa all'omega c'è tutto un universo da esplorare che spesso non si prende in considerazione, perché un errore che si fa e che ho visto, come dire, fare all'interno di alcuni interventi è che se uno non è alfa automaticamente diventa omega, nel senso che diventa qualche cosa che è subordinato, inferiore, femminilizzato. È un grave errore, perché si può essere, ripeto, alfa su una traiettoria del corso di vita, ponendo, ma questo vale anche per le donne, non solo per gli uomini. Ma lo switch non è così e facile. E non alfa su altre traiettorie ed essere una persona gradevolissima, non so come. Io ripeto, questa è la mia versione e la nostra versione. Mi spiace appunto che la mia collega non abbia potuto intervenire. No, ma è molto chiaro il suo punto. Io lo radicalizzo un po', però vedo che c'è un grande desiderio di maschio alfa incondizionato. Non interessa lo switch in beta, gamma, delta, epsilon, z e via dicendo. Giuditta. Buongiorno. No, io volevo soltanto dire che certe sue ospiti o certe signore che hanno telefonato, secondo me sono molto alfa, mi fanno più paura, sono più... Perché fanno paura? Fanno paura perché sono sia quelle che amano l'uomo alfa, pure le sue esperte che spiegano con un'aggressività nella voce. E lei com'è? E io sono dolce. E come lo vuole l'uomo? Io l'uomo lo voglio, guardi, faccio mia una cosa che ha detto Barbara Alberti l'altro giorno, cioè io mi innamoro degli occhi, dopo ci viene il resto, può essere un uomo, una donna, un coccodrillo, così. Perfetto, guardi, io ho dei pesci in acquario che hanno degli occhioni dolcissimi e quindi anche quelli possono essere oggetto di amore, però il maschio alfa sta da un'altra parte, un po' puzza, un po' è cattivo e soprattutto dopo aver amato, aver preso ciò che vuole, se ne va. Ci sentiamo la prossima settimana. Grazie al professor Chiappini, grazie a Fabrizio Intonti, grazie ai nostri ospiti. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.